Il punto di Stefano Folli. È ora di augurare buon Natale anche a chi governa oggi questo paese, Enrico Letta, e a chi si propone di governarlo domani, Matteo Renzi, i due principali interpreti di quelli che il Presidente del Consiglio ha definito ieri una svolta generazionale. Ma se fosse davvero tale, questa svolta dovrebbe riguardare i milioni di giovani che non hanno un lavoro e non hanno speranze di trovarne uno finché l'Italia continuerà a ristagnare. In ogni caso, buon Natale, con l'augurio che il prossimo anno sia davvero quello delle riforme e della buona politica, che non possono essere sempre solo annunciate, come ancora ieri ha fatto Letta, e nemmeno possono essere oggetto di interminabili maratone oratorie, specialità di Renzi, a proposito del quale tutti sperano che la capacità di risolvere i problemi sia pari a quella di parlarne in televisione. L'anno finisce con questi interrogativi. Che ne pensino i politici, la domanda che angustia tanti italiani non è quando si svolgeranno le elezioni, ma se nel 2014 migliorerà oppure no la loro condizione di vita.